Diciamo che se da un lato sono, diciamo, le notizie che auspichiamo di sentire, cioè il fatto che evidentemente le lotte della comunità Sikh in questi anni hanno smosso la situazione in maniera positiva, nel senso che c'è stata anche l'apertura di una serie di indagini dove probabilmente anche specificatamente questo filone di indagini è legato a tutto il sistema più, diciamo, più complesso di indagini che si sono messe in campo in questi anni e che c'è poco da girarci intorno. Si sono in qualche maniera accelerate grazie soprattutto al fatto che questa comunità ha portato alla luce il problema. Quindi immaginiamo quante altre situazioni simili non dette ci siano in Italia in questo momento che semplicemente non conosciamo e che purtroppo spesso, se non è la stessa comunità coinvolta a farle emergere, rimangono sconosciute ai più. Specificatamente appunto sul caso di oggi cominciano a esserci, a trapelare, diciamo, le prime notizie, quindi sicuramente è un po' presto per tirare le somme, diciamo, su quello che sta avvenendo. Mi colpisce molto, ma fino a un certo punto, nel senso che noi appunto, grazie alla ricerca che abbiamo fatto sul film, abbiamo un quadro molto chiaro di quello che è la dinamica nel territorio, e questo blitz di oggi mi ricorda tantissimo il blitz che documentammo nel 2016 quando stavamo girando il film. Ovviamente fu completamente casuale la cosa, perché non ne sapevamo nulla e l'abbiamo scoperto in corso d'opera, siamo riusciti a essere presenti con le telecamere, dove all'epoca in un'altra grossa azienda della zona, non a Sezze come in questo caso, ma in un altro dei paesi dell'Agropontino un po' più verso sud, di circa 400 lavoratori, poi si scoprì che circa l'80% erano in una serie di condizioni sicuramente di criticità. Come sappiamo bene, purtroppo lo sfruttamento delle lavoratrici e lavoratori si declina in tanti modi. Oggi spesso, tra l'altro, troviamo una compresenza di diversi modi e diverse singole problematicità che, associate una sopra l'altra, poi vanno a generare quel famoso salario di 2-3 euro l'ora di cui si parla, che dove purtroppo però è la punta dell'iceberg, perché se ci pensate anche l'avvenimento di oggi, scoperchi a questa situazione di sfruttamento che si concretizza in un salario molto basso, ma va a scoperchiare anche un'altra serie di dinamiche, cioè perché questo salario molto basso, per diverse ragioni, a volte perché le persone vengono pagate in nero, ma a volte le persone non sono pagate in nero, però di fatto il loro salario reale viene a essere drasticamente diminuito attraverso un'altra serie di pratiche come quella del cosiddetto caporalato. È sicuramente quella una zona dove questa piaga è molto forte, e appunto ne abbiamo parlato anche nel nostro film The Harvest, ma anche lì con diverse formule. Guardando un po' le notizie che stanno arrivando da stamattina, che appunto c'è anche stata questa, diciamo che il blitz è legato anche alle indagini che hanno seguito questi furgoni in questi ultimi mesi, molto, diciamo, presenti nel territorio e con dentro tantissimi braccianti stipati in questi furgoni. Ecco, questa qua sicuramente è una situazione che si avvicina in modo, diciamo, più chiaro al classico caporalato, cioè reclutamento illegale di forza lavoro fondamentalmente, quindi spostamento attraverso i furgoni, ma vi assicuro che questa è una pratica tra le tante. Molto spesso il caporalato c'è comunque, e quindi c'è anche quella attività di prelevare parte dello stipendio del lavoratore da parte di chi organizza il lavoro, tra virgolette, ma senza la presenza di furgoni, senza la presenza di reclutamento sul territorio, ma tutto organizzato in maniera telematica attraverso delle chat criptate di WhatsApp o di altri software di quel tipo. Quindi chiaramente è una situazione molto complessa, dove quando avvengono questo tipo di situazioni come quella di oggi, si va a scoperchiare un vaso che è molto più profondo di quello che appare e che ovviamente non si va a risolvere in poco tempo. Come vedete, anche la legge sul caporalato, che comunque sappiamo tutti essere stato un passo comunque importante, evidentemente non riesce ancora oggi, anche per volontà politiche, perché poi chiaramente c'è anche quell'aspetto che non si può sottovalutare, a raggiungere appieno i suoi obiettivi. Altro esempio, in questo caso a quanto pare gli indagati coinvolti sono tutti italiani. Non è sempre così, spesso ci sono dietro realtà organizzate, ma assolutamente legalmente, tra l'altro, nei paesi di origine, e lì chiaramente diventa molto più complesso andare a capire da dove parte il fenomeno e che natura assume e che modalità assume.